si attraggono come amanti che si abbracciano. Camminiamo ancora insieme, sopra il male, sopra il bene. Ma i fiumi si attraversano e le vette si conquistano. Corri fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Che rumore fa la felicità? Mentre i sogni si dissolvono e gli inverni si accavallano. Quanti spilli sulla pelle, dentro al petto, sulle spalle. Ma vedo il sole dei tuoi occhi neri, oltre il nero opaco dei miei pensieri. E vivo fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Corri amore, corri amore. Che rumore fa la felicità? Insieme la vita lo sai bene. Senza vento, bestemmiando al firmamento. Mentre il senso delle cose muta e ogni sicurezza è ormai scaduta, appassisce lentamente la coscienza della gente. Che rumore fa la felicità? Che sapore ha quando arriverà sopra i cieli grigi delle città, che fingono di essere rifugio per le anime. Corri fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole. Corri